Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Se ci aggiungete @radio24.it avete anche la nostra mail. A proposito di questo, devo dire che, come spesso dico, sono molte le lettere che arrivano e talvolta non per nostra colpa, ma proprio per la difficoltà dei casi e per il numero elevato rispondiamo con ritardo. Però nei casi interessanti lo facciamo, li seguiamo e lo facciamo. È il caso che affrontiamo oggi di un imprenditore italiano che è andato ad investire da alcuni anni nella Repubblica Slovacca. Pensate, questo imprenditore ci aveva segnalato il suo caso molto complesso nel luglio del 2009, quindi diversi mesi fa. Finalmente siamo riusciti ad affrontarlo, chiamando in causa anche l'ICE, e poi sentirete il perché, che è l'Istituto per il Commercio Estero, che ha declinato l'invito a partecipare alla puntata, e chiamando anche in causa l'ambasciata italiana a Bratislava, e precisamente l'ambasciatore Borzi. Ma sentiremo più tardi la risposta dell'ambasciata italiana. Nel frattempo io do il buongiorno al nostro radioascoltatore, l'imprenditore Alberto Romagnoli. Buongiorno. Buongiorno. Cominciamo a raccontare la sua storia. Ha investito nella Repubblica Slovacca nel 2005, se non ricordo male. Sì, ho cominciato nel 2005. Nel novembre 2005, esattamente. Investendo, lei ci dice, diversi milioni di corone in una società che si chiama Trenex. Ecco, vuol dirci perché è andato nella Repubblica Slovacca e che cosa fa o faceva con la sua società? Allora, nella Repubblica Slovacca sono andato perché è una regione dove c'è dell'ottima qualità di legno, particolarmente di legno duro, nella parte est della Slovacchia, quindi c'è prezzi molto favorevoli per il legno duro. Questa è la motivazione. Quindi lei, come tanti altri imprenditori, ha deciso di andare verso i paesi dell'est perché la manodopera costava meno? Perché no, non tanto per questo, perché non è tanto il costo della manodopera, è il costo della materia prima. Sì, no, ma io infatti stavo completando il discorso. Non soltanto nel suo caso, intendo dire, generalmente gli imprenditori si recavano nei paesi dell'est, delle ex repubbliche sovietiche, anche perché o la manodopera costava meno, o la materia prima era buona, o perché erano canali commerciali ottimi di sbocco per nuovi mercati. Insomma, ha fatto i suoi ragionamenti e è andato ad investire lì. Però nel momento in cui è andato ad investire, che cosa è successo? E qui entriamo un po' nel vivo delle sue disavventure. È successo che in realtà la Slovacchia è entrata nella comunità europea adeguando la legislazione alla richiesta della Unione Europea, ma questo però è solamente un fatto apparente. Ho capito. In realtà quando uno investe in questi paesi dell'est Europa, investe in paesi che sono sovrani e in cui quando un legislatore, un imprenditore ha dei problemi, deve rivolgersi per forza alle istituzioni slovacche, che però non garantiscono... Ecco, allora andiamo a vedere che cosa non garantiscono, soprattutto andiamo a vedere che cosa è successo. Lei ha subito una truffa dal suo socio, che cosa è successo esattamente? Beh, è successo il fatto che in realtà io ho acquistato delle quote societarie in una società, ma questa società in realtà è una società che è fatta a scatole cinesi, una società matriosca, cioè la stessa società Trenex ne conteneva un'altra che si chiama Trenex, anche questa, una società personale, e allo stesso luogo c'erano in realtà tre società in conflitto di interesse fra di loro, e questo sostanzialmente non è legale, ma è sostanzialmente tollerato. E quanto ha perso lei, diciamo, finora nei suoi investimenti? Quanto ho perso? Praticamente esatto. Tutto, perché non sono riuscito nemmeno a guadagnare nemmeno un euro fin dal 2005 ad oggi. Ecco. Ho solamente perso. Quindi perché è tutto bloccato, ho solo investito, non ho avuto nessun ritorno. Ecco, allora veniamo un po' ad un altro aspetto che lei segnala nella sua lettera, decisamente dolente, vale a dire. Lei parla delle coperture politiche, non solo, che il suo ex socio, la moglie del suo ex socio, insomma un sistema di garanzie che tutela chi probabilmente ha un modo abbastanza così lascivo di condurre gli affari e invece non tutela più di tanto gli imprenditori stranieri che si recano in questa Repubblica. Ma direi che non può tutelare i piccoli imprenditori che non hanno la forza economica di resistere al blocco di un'attività economica a lungo tempo, perché il ricorso alla via giudiziaria è difficilissimo. Ecco, allora adesso lungo, lei che cosa si aspetta? E soprattutto il problema della corruzione giudiziaria è un problema molto ben conosciuto qui, di cui si parlano apertamente. E poi guardi, le difficoltà gliele spiego molto semplicemente. Prego. Quando amichevolmente, perché ci sono anche delle persone serie, la stessa polizia ti dice che la mafia oggi ha messo le sue radici nei paesi dell'est, in Slovacchia, in Russia, queste sono dichiarazioni che fanno loro stessi. Questo è un paese nel quale è possibile presentare in tribunale dei contratti truffa e naturalmente i giudici non svolgono nessun controllo, gli avvocati spesso sono conniventi con la controparte e vengono emesse sentenze che non hanno nessun senso. Ecco, questa è comunque una dichiarazione molto forte, ma direi un po' totalizzante e generica. Non posso credere che non ci siano anche persone, giudici, istituzioni che facciano bene lì il loro mestiere. Anzi, io dico ai nostri radioascoltatori che nei prossimi giorni cercheremo il consolato slovacco in Italia per avere anche la loro risposta. Però io le chiedo questo, dottor Romagnoli, ma che tipo di aiuto ha avuto dalle istituzioni italiane? Io scusi, mi permette. Su questa affermazione vorrei anche dire che non vorrei contestarla. Io ho avuto 2 giorni fa respinta una denuncia per truffa dopo aver presentato un controllo di una perizia falsa. Sì, ma io non metto in dubbio che il suo caso sia un caso in cui possa esserci corruzione, possano esserci... Ma corruzione non lo so, comunque è un dato di fatto. Però totalizzare, generalizzare, no? E voglio dire, rende tutto nero e a quel punto non c'è più la possibilità di vedere davvero quello che accade. Ma vorrei chiederle questo, dottor Romagnoli, a questo punto lei che cosa si aspetta per il futuro e soprattutto che tipo di vicinanza ha avuto dalle istituzioni italiane, ambasciata, sentiremo? L'ambasciata italiana è stata preziosa, però purtroppo non ha molti, le ambasciate non hanno poteri di intervento, qui si tratta di stati sovrani nei quali le ambasciate hanno poteri molto limitati. Però andiamo a sentire che cosa ci ha dichiarato per lettera l'ambasciatrice italiana nella Repubblica Slovacca, Bratislava, Brunella Borzi Cornacchia. Gentile signor Romagnoli, con riferimento alla precorsa corrispondenza dello scorso 4 settembre e alla comunicazione odierna, nell'intento di fornirle ogni utile elemento in vista della sua intervista radiofonica, si segnala che Sua Eccellenza l'ambasciatore Borzi ha già richiesto di essere ricevuta dal nuovo ministro della Giustizia e siamo al momento in attesa di una conferma. Stiamo inoltre attirando l'attenzione anche di questo Ministero dell'Economia sul suo caso. Sarà nostra cura fornirle, non appena possibile, ogni ulteriore informazione in proposito. Distinti saluti, Ambasciata d'Italia a Bratislava. Ecco, dottor Romagnoli, tutto sommato mi pare che c'è un impegno diretto. Sarà pur vero che le ambasciate possono far poco, ma qualcosa... Di questo io ringrazio molto. Il problema è che dubito molto di questo... di questo fatto, anche perché mi viene dichiarato apertamente che anche se io nel caso che io vincessi le cause giudiziarie, tanto qui non posso rimanere, questo è il problema. Ecco, perché non può rimanere? Ma non posso rimanere perché di fatto rimanere vuol dire, significa venire a patti con un sistema di rapporti, di relazioni che a me non interessa. Ecco, ma mi scusi una domanda, ma sì, lei prima di recarsi in questo paese non aveva preso delle informazioni? Cioè, perché la mafia nei paesi dell'est non è che la scopriamo oggi, voglio dire, i casalesi sono andati nella Repubblica Tedesca un anno prima che crollasse il muro, perché ormai l'aria era quella e hanno investito centinaia di milioni di euro, la mafia russa fa affari con quella italiana da decenni, voglio dire, insomma, non è una novità, no, quella della corruzione, della mafia, ecco. Guardi, io le ripeto, innanzitutto la Slovacchia è un paese che apparentemente dà una grande sensazione di legalità formale. Ecco. Il problema è la legalità reale. Certo. Cioè, certo. No, il problema è proprio questo. Mi scusi, abbia pazienza, questo è un paese dove i notai per legge non sono tenuti a certificare la veridicità degli atti che fanno. Hanno fatto una legge di riforma del catasto per entrare nella comunità europea, l'hanno dichiarata incostituzionale. Questo è un paese nel quale uno compra un edificio, uno stabilimento per poter produrre o fare un investimento, dopodiché non ha la proprietà dei terreni, che è frazionata fra migliaia di possibili eredi che ci sono dentro. Quindi sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Allora, nessuna cosa. Certo. E poi, scusi, c'è un problema, la differenza tra quello che c'è scritto negli atti e il contenuto degli atti. Non c'è nessuna corrispondenza tra ciò che è scritto negli atti, ciò che viene detto e la reale applicazione. Benissimo, purtroppo questo poi si scopre soltanto sulla pelle di chi fa impresa. Allora io ringrazio l'imprenditore Romagnoli per la sua testimonianza estremamente negativa sulla sua esperienza di imprenditore appunto nella Repubblica Slovacca. Come detto, cercheremo il consolato per avere anche per seguire questo caso, quindi daremo appuntamento nuovamente anche al nostro imprenditore, perché c'è un impegno solenne anche della nostra ambasciata. Quindi ringrazio il dottor Romagnoli, grazie a regia Peter Bescapein, studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.